se fossi un ricordo, potrei riempirti gli occhi. Se fossi un sorriso, aprire la tua bocca. E se fossi un sogno, potrei abitare nel fossi un poeta, potrei dire che sei bella come un giorno inventato, bella come un uomo che piange, bella come un bimbo che dorme, bella come tutte le cose che non ho. Fossi un gatto, dormire sul tuo cuore. E se fossi un poeta, potrei dire che sei bella come un gatto.